L'amore è forse la parola in assoluto più citata in tutte le lingue. Lo si invoca ad ogni istante, in ogni occasione, come per un religioso invocare Dio. Simile ad una giaculatoria, la parola fiorisce negli spot pubblicitari di qualsiasi prodotto, nelle canzoni di Sanremo, nelle trasmissioni televisive, in discorsi, articoli, saggi, romanzi, film e poesie. Di conseguenza non può che essere abusata, strumentalizzata, consumata, svuotata. Infatti, se l'umanità nei fatti rispecchiasse il gran parlare che si fa di questo sostantivo, la malvagità sarebbe di gran lunga inferiore. Purtroppo, anche un solo sguardo superficiale al comportamento sociale evidenzia che di amore venne è ben poco. Milioni di vite sono danneggiate quotidianamente nel nome dell'amore. Proprio per questo è necessaria una vera e propria disintossicazione dall'attuale disordinata considerazione dell'amore, che invece va basata sulla parola di Dio e sull'esperienza. Quindi sono pochi i temi urgenti come quello dell'amore. Molto è stato detto e molto si dirà sull'amore. Sono stati versati fiumi d'inchiostro, usati mari di parole, un mondo di opinioni per invitare le persone ad amarsi, ma il risultato è drammaticamente sproporzionato rispetto agli sforzi compiuti. Qualcosa non va, in qualche cosa si è sbagliato. Molto probabilmente non è stato affrontato e non viene considerato il tema dell'amore nel modo appropriato. Con questo non intendo disprezzare libri e riflessioni più che eccellenti, come quelle di C.S. Lewis, che nel suo libro I quattro amori fa una brillante disamina e fusione fra amicizia, affetto, Eros ed amore. Sono più che debitore a tutti coloro che hanno scritto trattati sull'amore. Tuttavia, per quanto posso aver capito, nell'affrontarne il tema non è stato dato il giusto rilievo ad una inclinazione molto simile all'amore, ma essendo scambiata per esso, ha depistato clamorosamente il nostro modo di affrontare il tema dell'amore, l'istinto. Affronterò quindi il tema dell'amore partendo da una breve trattazione cosa sia l'istinto, perché se alla fine l'istinto si rivelasse quale surrogato sottoprodotto dell'amore, allora abbiamo una spiegazione al nostro naufragio in relazione ad esso. Il vocabolario della lingua italiana della Treccani definisce l'istinto un impulso o una tendenza innata che provoca negli animali e nell'uomo comportamenti che consistono in risposte o reazioni caratteristiche sostanzialmente fisse e immediate a determinate situazioni. L'istinto è quindi una tendenza innata che precede la conoscenza ed è indipendente dall'esperienza. Sia negli animali che nell'uomo rileviamo istinti comuni come quelli dell'autoconservazione, del possesso, dell'aggressività, quello sessuale, del potere e dello sviluppo. Sotto la voce istinto, l'enciclopedia del Novecento della Treccani, benché l'autore Robert H. Inde affermi che l'istinto non è più un concetto scientificamente utile, scrive in relazione al comportamento degli animali quanto segue. Quasi tutte le specie di uccelli costruiscono nidi malit abbastanza elaborati. In ogni caso studiato si è visto che individui allevati fin da prima della schiusa delle uova da genitori adottivi in un tipo di nido diverso dal loro una volta raggiunta la maturità sessuale costruiscono sempre un tipo di nido caratteristico della loro specie in un periodo appropriato per la deposizione delle uova. Come sapevano questi uccelli in che modo costruire un nido? Che cosa li ha indotti a costruire un nido giusto in tempo per deporvi le uova? La semplice risposta a queste due domande era che gli uccelli hanno costruito i nidi istintivamente. Sì, gli istinti conducono sia gli esseri umani sia gli animali ad agire con immutabile uniformità, spinti da una inclinazione innata, senza l'intervento del ragionamento e della riflessione. Gli uccelli migratori di oggi migrano esattamente come quelli di mille anni fa. Il castoro costruisce oggi la sua tana come nei secoli scorsi. L'ape costruisce le sue celle esattamente come nei tempi antichi. Lo stesso dicasi per la razza umana. Quando un bambino nasce, per istinto cerca il cibo e succhia il latte dalla madre. Senza questo impulso istintivo nessuno di noi sarebbe in vita. Quando cade nel fare i suoi primi passi, il bambino istintivamente si protegge protendendo le manine in avanti. Il suo comportamento non è dovuto né all'esperienza né all'apprendimento, ma all'istinto di conservazione. Con l'istinto del possesso e del potere l'uomo forma la società e si colloca in essa. Con l'istinto sessuale è assicurata la sopravvivenza della specie con l'istinto dello sviluppo. Costruisce, crea, tende al progresso. Senza istinti la razza umana non avrebbe più possibilità di sopravvivenza rispetto agli animali. L'istinto, quindi, e non l'amore, è il garante dell'esistenza dell'uomo. C. È di più. Le scienze naturali classificano il mondo in tre regni: regno minerale, vegetale, animale. La razza umana appartiene al regno animale, mentre il regno minerale, sassi, metalli, non prova sensazioni, emozioni. Il regno vegetale e animale si esprimono con dei sentimenti. Forse qualcuno penserà che una pianta, la quale appartiene al regno vegetale, non provi emozioni, ma ciò non è vero. Se voi strappate un ramo da una pianta nel periodo della fioritura, essa soffre. Non è una sofferenza cosciente come la nostra, ma comunque la pianta ne risente perché in lei ci è vita, mentre un sasso, se viene spaccato, non ne risente emotivamente. Dunque, dove ci è vita, vi è espressione. Espressione questa che si nota maggiormente nelle bestie. Proprio per questo le bestie le chiamiamo animali, una parola che deriva dal latino animalis, cioè che dà vita, animato. Le piante, l'uomo e le bestie, avendo un seme, appartengono al regno animato. Dunque, l'uomo non è un animale, ma appartiene al regno animale, parola questa che deriva anche da anima, che in senso lato viene riferita a ogni organismo vivente dotato di moto e di sensi. Il cane esprime la sua gioia muovendo la coda, la sua paura mettendo la coda fra le zampe, la sua attenzione drizzando le orecchie. Tutto ciò è istintivo, non è il risultato di un ammaestramento. L'uomo, come le bestie, ha una vita emotiva, composta di sentimenti che comprendono la gioia, l'eccitazione, la tristezza, la malinconia, la sofferenza, la confusione. Per istinto gli animali proteggono la loro prole. La gallina raccogliendo i pulcini sotto le sue ali, molti animali si oppongono ai predatori per proteggere i loro piccoli. Così anche i genitori di un bambino, per istinto, curano e proteggono la loro progenie procurandole cibo, vestiti e istruzione. Queste prime riflessioni hanno lo scopo di chiarire un pregiudizio. Il nostro comportamento naturale è dovuto principalmente ai nostri istinti e non, come comunemente si pensa, all'amore. Quando viene presentato come emblema dell'amore una madre che cura e nutre il suo bambino, questa lo fa innanzitutto mossa dall'istinto materno che ha ricevuto dalla nascita, istinto che si trova anche negli animali e che da noi no. Quando un uomo e una donna si sentono attratti emotivamente e fisicamente, noi subito intoniamo un inno all'amore. Ma, come succede nel regno animale, tutto si svolge nell'ambito dell'istinto della riproduzione. Finché noi esseri umani cerchiamo delle motivazioni razionali per spiegare l'innamoramento e tutto il processo della procreazione e conservazione della specie, benché chiamiamo amore i nostri comportamenti, istintivi di affetto, d'ammirazione, di possesso fisico, dobbiamo chinare il capo di fronte alla realtà. I fili che fanno muovere la nostra vita, gli impulsi segreti che determinano inconsciamente atteggiamenti e reazioni amorevoli, sono i nostri istinti. La realtà spesso è iconoclastica. Ecco una prima ragione del nostro fallimento nel campo dell'amore. L'uomo ha attribuito all'amore ciò che appartiene agli istinti. Definisce amore fare sesso, quando ciò è la risposta ad uno stimolo istintivo. Chiama amore i sentimenti umani di protezione, di filantropia, quando questi istinti ci sono trasmessi automaticamente fin dal concepimento per la conservazione della specie. E questo quello che Paolo voleva comunicare quando scrisse: «E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dissi il mio corpo per essere arso ma non ho amore, tutto questo niente mi giova». 1 Corinzi 13:3. È possibile compiere grandi sacrifici a favore del prossimo senza essere motivati dall'amore. Per questo l'uomo è più che confuso. afferma di amare, è convinto di amare, ma è molto lontano dalla realtà, non comprendendo il grave errore di aver confuso il vero amore. Con gli istinti, l'uomo rimane deluso da ciò che chiama amore, non si fida più dell'amore, diventa cinico anche verso ogni espressione genuina d'amore e non comprende più il messaggio evangelico dell'amore di Dio. I falsi messaggi sull'amore che continuamente bombardano la sua mente lo hanno reso apatico, incredulo, diffidente e incapace di comprendere le realtà celesti. E, come in un circolo chiuso, più cerca amore, meno ne trova. Meno ne trova, più è assetato d'amore. Chi sarà in grado di soddisfare un simile cuore? Chi sarà in grado di far comprendere all'uomo che esiste il vero amore? Solo colui che lo ha realizzato. Ma chi ha realizzato il vero amore? Quando noi uomini abbiamo un intelletto inguaribilmente astratto e romantico, quando il nostro giudizio è distorto e irreale, quando l'immoralità ha corrotto ogni nostra espressione emotiva, mai come oggi i sentimenti umani vengono esaltati, decantati, se non divinizzati. Eppure, la vita emotiva può essere considerata il nemico più terribile per un essere umano e per un credente, che desidera vivere per lo Spirito Santo. Non è difficile dimostrare che i nostri sentimenti, le sensazioni, l'emotività siano corrotti. Verdù, che strangolava le donne, non voleva che si tirasse la coda al suo gatto o che si strappasse un petalo a una rosa. Un feroce aguzzino, il comandante del lager di Auschwitz, accompagnava i suoi bambini a porgere il cibo ai gentili cerbiatti. In prigione, ha detto Richard Wurmbrand, che ha scontato 18 anni di prigionia per la sua fede in Gesù Cristo, degli assassini inveterati si privavano della loro unica fettina di pane per nutrire le rondini. I nostri sentimenti sono talmente corrotti che ogni manifestazione emotivamente positiva la chiamiamo amore. Se ci commuoviamo fino alle lacrime davanti a una sofferenza, questo non è amore ma sensibilità. Se ci lasciamo prendere dalla personalità di una persona o dal suo fascino, se troviamo il suo spirito interessante, non si tratta di amore ma di ammirazione. Se invece desideriamo ottenere uno sguardo, una carezza, un bacio, se siamo pronti a tutto pur di possederla, non si tratta di amore ma di sensualità. Amare non è essere commosso da un altro. Avere questi aspetti possono far parte dell'amore, ma non sono necessariamente espressioni dell'amore. Se sono gli istinti che dettano i nostri comportamenti, quando è che si può parlare di amore? Che cosa si intende per amore? Esiste il vero amore? La risposta a queste domande si potrebbe perdere in un lungo ragionamento filosofico, ma partendo dall'ovvio presupposto che la materia non può produrre sentimenti quali amicizia, affetto, rispetto, tantomeno la ragione dell'uomo, e che l'uomo è il risultato dell'opera di un creatore che lo ha fatto a sua immagine e somiglianza, l'unica soluzione per rispondere a queste solenni domande è quella di conoscere il carattere e le caratteristiche del creatore. E poiché, per quanto ne sappiamo, il Creatore si è rivelato e fatto conoscere in Gesù, il figlio di Maria Vergine, e che la sua rivelazione è scritta, si trova nelle scritture degli Ebrei per quello che riguarda l'Antico Testamento, e negli scritti del Nuovo Testamento, redatti dai suoi discepoli, non vi è alternativa. Occorre indagare le scritture, la parola di Dio, la Bibbia. O essa è in grado di farci conoscere il carattere del nostro Creatore, o noi brancoliamo ancora nel buio più assoluto in un turbinio di parole senza senso. Se Dio è amore, abbiamo un punto sicuro di riferimento a cui guardare, perché anche se noi non possediamo il vero amore e non conosciamo il suo significato, possiamo sempre ritornare alla fonte della verità. Abbiamo preso atto che sia gli animali sia l'uomo hanno un'anima, ma l'anima dell'uomo si distingue da quella degli animali, perché è vivificata dallo spirito che il Creatore ha soffiato o infuso. Al momento della creazione del primo uomo, Adamo, come non ogni carne è la stessa carne, così avviene per l'anima, vi è un'anima animale e un'anima umana. Lo spirito che il Creatore ha versato dentro in Adamo è ciò che distingue l'uomo dalle bestie. Avendo ricevuto lo spirito del Creatore, L'uomo è l'unica creatura che sia diventata un rappresentante di Dio che gli assomigli. Ad Adamo e quindi a tutta la razza furono conferite capacità spirituali, intellettive e volitive. Ciò che distingue quindi l'uomo dalle bestie non sono tanto gli impulsi naturali o la capacità di provare emozioni, ma l'avere tendenze alle cose che non appartengono alle inclinazioni animali, cioè la sfera spirituale, l'avere una volontà che si opponga agli istinti, l'avere un'intelligenza non condizionata dagli istinti. Infatti non si è mai visto un animale assorto ad ammirare un tramonto o a riflettere sulla propria esistenza, a controllare la sua ira, costruire la propria dimora con uno stile moderno, essere ambizioso. Gli animali possono squittire come i topi, cinguettare come gli uccelli e parlare come i pappagalli, ma solo l'uomo può produrre arte, letteratura, musica, invenzioni scientifiche, cercare e parlare con il suo creatore. Proprio perché l'uomo può svincolarsi dagli istinti, egli non è necessariamente schiavo, ha la capacità e possibilità di controllarli. E questo gli dà la possibilità di amare, e, ovviamente, il suo contrario, di odiare. L'amore e l'odio, per essere tali, devono avvalersi della libertà, diversamente sarebbero anch'essi collocabili nell'ambito degli istinti. Così, gli animali che sono subordinati dagli istinti non possono amare e conoscere l'amore. L'amore rende l'uomo simile al suo creatore più di qualsiasi altra virtù. Ma come? È il vero amore di Dio che procede da lui e non è condizionato dagli istinti? Rispondiamo a questa domanda in 4 punti. Abbiamo un concetto errato dell'amore. 1. La conclusione più razionale e ovvia al fatto che l'uomo con il suo amore si stia distruggendo dovrebbe essere che il suo amore non è vero amore. Eppure, se cin è una cosa della quale l'uomo non è convinto, è proprio quella che i suoi istinti siano sbagliati, di avere un modo di pensare radicalmente sbagliato, e questo perché glielo suggerisce il suo istinto. Per istinto di conservazione, non voglio entrare nel merito dell'orgoglio, l'uomo rifiuta di dichiarare bancarotta nel campo delle sue valutazioni, perché non avendo un'alternativa ragionevolmente umana al suo fallimento, ciò equivarrebbe ad un salto nel buio. La verità è questa: abbiamo un concetto errato dell'amore di Dio e quindi anche del nostro amore. Però, se noi abbiamo un'opinione sbagliata sull'amore di Dio, non l'avevano certamente coloro ai quali Dio si era rivelato. Ecco come si esprime il profeta Naum. L'Eterno è un Dio geloso e vendicatore. L'Eterno è vendicatore e pieno di furore. L'Eterno si vendica dei suoi avversari e conserva l'ira per i suoi nemici. L'Eterno è buono, una fortezza. Nel giorno dell'avversità, egli conosce quelli che si rifugiano in lui. Nahum 1, 2 e 7. Il profeta Nahum presenta l'Eterno come colui che è buono. Una persona buona è colei che ha una sensibilità d'animo benigna verso tutti. Eppure il profeta Nahum proclama che Dio è buono dopo averlo dichiarato geloso e vendicatore, che conserva l'ira per i suoi nemici. Questa visione del Dio di Israele non rientra certamente nei canoni morali dei nostri tempi, non si affianca all'opinione dei primi cristiani che ritenevano Dio anche un fuoco consumante, Ebrei mezzogiorno 29, non è consona ai nostri innati istinti. Purtroppo, una visione distorta dell'amore di Dio ci porta ad avere un'opinione alterata dei nostri impulsi naturali. Se tutto ciò che è buono e giusto deve essere simile ai nostri istinti affettivi, alle nostre inclinazioni naturali, ai nostri parametri morali, allora è il creatore, il datore dei nostri istinti, che viene ridotto ad immagine e somiglianza dell'uomo, anziché innalzare la creatura al livello di Dio. Per una visione giusta ed equilibrata del vero amore occorre coniugare l'amore di Dio con la sua giustizia. Diversamente l'amore risulta sdolcinato, melenso, e la giustizia legalista e impietosa. Se si separa l'amore di Dio dagli altri suoi attributi, si ottiene un vero e proprio divorzio intellettuale, che come ogni altro divorzio porta alla incomunicabilità dell'uomo col suo creatore. Non bisogna separare ciò che in Dio è unito. Se da un lato della medaglia troviamo che l'amore di Dio è teso a farci del bene, dall'altro lato troviamo che, sempre per amore, Dio ci fa del male. E avverrà che, come l'Eterno prendeva piacere nel farvi del bene e nel moltiplicarvi, così l'Eterno prenderà piacere nel farvi perire e nel distruggervi. Deuteronomio 28:63, Zaccaria 8:14. Come una moneta che cada sempre dalla stessa parte è senz'altro truccata, così colui che tende a considerare solo l'aspetto del bene ha forse una fede bella, attraente, ma è da ritenere falsa e truccata. Sentimentalismo? E dall'innamoramento così esaltato e ricercato dai giovani quanto sfruttato dagli adulti a discapito dagli istinti e desideri giovanili. Il vero amore esula quindi dal nostro perbenismo. Se fossi ateo o un accanito avversario del cristianesimo cercherei l'assurdità della fede cristiana nell'idea. Ovunque ci è sofferenza, pianto, guerra e ingiustizia. L'impronta che il Creatore ha lasciato, e lascia, indica esattamente il contrario di un padre amorevole. Posso anche comprendere che Dio tratti coloro che lo odiano aspramente e senza misericordia, perché questo rientra anche nei canoni dei miei istinti. Ma quando leggo che un padre misericordioso flagelli ogni figlio che gradisce, Ebrei 12:6, trattando così i suoi figli, coloro che lo amano, allora i miei pensieri vanno in corto circuito, non vi è più nulla di conciliabile. Quando una ragazza desidera dare la prova d'amore al suo ragazzo non cerca certamente di farlo soffrire. Quando un genitore desidera dimostrare il suo amore premiando suo figlio non ha in mente pianti e grida, ma quando i cristiani testimoniano che Dio è amore vogliono dire che in fondo bisogna prepararsi alle lacrime, a sofferenze. Gli apostoli che vissero con Gesù avevano le idee chiare in merito. Poiché a voi è stata data la grazia, non disgrazia, per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, Filippesi 1:29. E ancora, mandammo Timoteo per confermarvi e confortarvi nella vostra fede affinché nessuno fosse scosso in queste afflizioni, poiché voi stessi sapete che a questo noi siamo stati designati. Infatti anche quando eravamo tra voi vi predicevamo che avremmo sofferto tribolazioni proprio come è avvenuto, e voi lo sapete, 1 Tessalonicesi 3, 2 a 5. Se l'amore di Dio è in contraddizione con la sofferenza, le conclusioni sono due. O Dio non è amore, o noi abbiamo un'opinione falsa dell'amore. Visto che l'uomo ha una morale mutevole, soggettiva, limitata, non rimane che accettare umilmente che sia Dio a definire cos è l'amore nella mareggiata delle nostre opinioni. L'amore di Dio è un atto di volontà. 2. La nostra epoca è caratterizzata da una insicurezza di fondo. Tutto cambia, nulla è stabile. Anche molti cristiani sono in preda all'incertezza e alla confusione. Nella prima lettera di Giovanni troviamo invece sicurezza, conoscenza, fiducia, audacia. Il suo messaggio è preciso, incisivo. Uno dei temi fondamentali è l'amore, l'amore di Dio e quello fraterno. Fa quindi al caso nostro. Leggiamo in 1 Giovanni 4, 8, 12. Chi non ama, non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. Da quando gli apostoli hanno dichiarato che Dio è amore, la notizia è rimbalzata in tutte le culture e accolta con gioiosa accettazione. Per questo gli uomini si sono innamorati dell'amore, dell'innamoramento, del piacere che provocano tali sentimenti. Gli esseri umani sono lieti di avere un creatore con una simile caratteristica, anche perché colui che crede di essere stato fatto a sua immagine e somiglianza pensa di avere automaticamente tale dono. Così, senza tanto approfondire l'argomento, gli esseri umani scambiano i loro sentimenti istintivi per amore, perché si dà per scontato che l'amore sia il prodotto della nostra emotività. Per questo, sull'onda di facili entusiasmi attribuiti all'amore, si commettono i più grandi crimini e scelleratezze per realizzare i sentimenti che si provano. Così, per evitare continui errori e interpretazioni sbagliate, dobbiamo considerare l'affermazione di Giovanni da un'altra ottica. Quando affermiamo che Dio è amore, non dobbiamo pensare a Lui come se l'amore fosse una qualità che possiede negli stessi termini di un uomo che è gentile. La sua gentilezza è una virtù coltivata, come per un cavallo del circo fare l'inchino. Come un uomo non adeguatamente educato e terribilmente scontroso, così è per il cavallo quando si trova in libertà. Per istinto non si inchina davanti a nessuno. Dio invece è amore perché l'amore è Dio, cioè una persona. L'amore quindi non è riconducibile ad un sentimento, anche se produce dei sentimenti, non si individua nei nostri istinti, ma è identificabile solo se osserviamo il comportamento dell'amore, cioè di Dio. Per questo l'Apostolo Giovanni descrive come si è manifestato l'amore di Dio, o meglio, come l'amore ha manifestato una sua caratteristica. Ha mandato il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Giovanni ha spiegato in che modo l'amore ha manifestato se stesso, ma non si limita a questa riflessione. Egli desidera comunicare al lettore qualcosa di più, vuole far comprendere non solo come Dio ha manifestato il suo amore, ma anche in che cosa consiste l'amore di Dio. Vuole partecipare al lettore in che cosa consiste l'essenza dell'amore. Se l'amore è Dio, allora Giovanni definisce la caratteristica dell'essenza di Dio. Non siamo noi che abbiamo preso l'iniziativa di amare Dio, ma Lui ha preso l'iniziativa di volerci amare. Questo è l'amore, questo è Dio. Deliberare o decidere di volere il bene ad altri esseri simili a Lui. Come conseguenza di questa decisione, l'Eterno Dio ha creato l'uomo maschio e femmina a sua immagine e somiglianza. Lo ha posto in un luogo adatto a lui e per lui. Ha lasciato che nella libertà scegliesse l'allontanamento dal suo creatore. Non gli imputa nulla delle sue colpe. Ha dato se stesso in sacrificio affinché la sua creatura fosse riconciliata con lui. Ecco dunque come si è comportato l'amore. Dal momento che l'uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio, Giovanni sta asserendo che chi non ama nel modo in cui ha amato l'amore non può affermare di avere avuto un'esperienza personale con Dio. Ogni manifestazione di amore dell'uomo che non rientra nei canoni di Dio è da ritenere illecita, falsa, illusoria, truccata. Se l'amore di Dio è stato quello di decidere di voler far del bene alla sua creatura, l'amore degli uomini è tale solo quando essi, nei loro comportamenti, cercano il bene del prossimo. E cercare il bene del prossimo non significa automaticamente che i nostri sentimenti e i nostri istinti siano in sintonia con tale determinazione. Quando Gesù ha ordinato ai suoi discepoli di pregare, di accogliere e di fare del bene ai propri nemici, non ha fatto certamente appello ai loro istinti e ai loro sentimenti, ma alla loro volontà. I sentimenti e gli istinti positivi non precedono sempre un'azione caritatevole, ma succede che in seguito i sentimenti si allineano con il nostro comportamento. Questo aspetto comportamentale contraddistingue gli animali dall'uomo. Mentre un animale agisce per istinto e sottoposto ad esso, l'uomo, mediante lo spirito fornito da Dio, può controllare e guidare i propri istinti. Il mio impulso naturale è di fare vendetta dei miei nemici, ma in piena libertà, con la volontà, posso contrastare tale inclinazione se non addirittura capovolgerla, trasformare l'odio in amore. Questo comportamento peculiare dell'uomo è possibile solo con un atto di volontà, e ciò si accorda con la definizione dell'istinto che ne fa il dizionario della lingua italiana Devoto Oli. la spinta interna, congenita ed immutabile ad agire e comportarsi in un determinato modo, che, sebbene indipendente dall'intelligenza, può essere da questa modificata, regolata, repressa. È anche vero che alcuni animali possono andare contro i loro istinti, come il cavallo che si esibisce in un circo con un inchino. Ma questo succede perché è stato domato, ammansito, ammaestrato, cioè costretto con la forza, mentre Dio fa appello ad un libero atto di ubbidienza da parte dell'uomo. Come scrisse Lewis, essere completamente uomo significa sottomettere le nostre emozioni alla volontà, e la volontà offerta a Dio. In effetti, il peccato non è altro che la condiscendenza della volontà alla tentazione. Ecco perché ogni dipendenza, sia da cose terrene, farmaci, fumo, droga, sia nel campo spirituale, che non sia da Dio, è da ritenersi satanica, avversaria al volere di Dio, Matteo 16 e 23. Il vero amore si esprime nella verità. 3. Non vi sono dubbi. L'amore al quale si richiama l'umanità ha fatto naufragio. Seguendo le pulsioni dei suoi istinti che ritiene dettati dall'amore, l'uomo va dove lo porta il cuore, sta distruggendo il bene morale datogli dal Creatore. In nome dell'amore, ostinatamente continua ad abbandonarsi ad adulteri, omicidi, fornicazioni, omosessualità. Gli istinti di conservazione e di possesso, quello sessuale, materno, sono assecondati a briglie sciolte e, come un cavallo sfrenato, come un'emozione devastante, come un fuoco in una prateria, producono devastazione, ferite fisiche, morali, spirituali e infine morte. Bisogna dare ai nostri istinti e alle nostre emozioni inattendibili il loro posto. Essi non possono essere la base dei giudizi di valore. Non si possono sopprimere perché non siamo degli angeli, non si possono lasciare libere perché non siamo delle bestie. Una prova che la razza umana non deriva dall'evoluzione di qualche animale è data dal fatto che quando l'uomo non vive secondo i propri istinti diventa peggio delle bestie. Infatti, mentre un animale non abbandona per istinto la sua prole, a meno che questo non rientri nella legge della natura, l'uomo è capace di abbandonare, se non di uccidere in una spazzatura, il frutto delle sue viscere. Come guidare i nostri istinti? Come riconoscerne la loro liceità? La parola di Dio ha una risposta a questi fondamentali interrogativi. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. 1 Giovanni 5, 3. Se i comportamenti dell'amore li ha definiti l'amore stesso, se lo si vuole esprimere nel modo giusto, non vi è alternativa se non quella di praticare l'amore all'interno dei principi morali espressi da Dio. L'Apostolo Giovanni riconosce che l'amore che procede da Dio si esprime osservando i suoi comandamenti e non vivendo secondo i propri istinti o facendo ciò che si sente. Diffidare dei propri istinti, soprattutto quando questi si presentano come un demone, equivale per un uomo a non credere a ciò che vede o a ciò che ascolta. Mettersi in discussione quando tutto è evidentemente chiaro è come ritenersi stupidi, insensati. Eppure è ciò che Dio richiede. La volontà di Dio è che dobbiamo avere fiducia più di Lui che dei nostri istinti, dei nostri sentimenti, del nostro amore. Quando ovunque si decanta l'amore, quando l'importante è fare l'amore, quando vi è un coro d'amore, è difficile suonare una nota diversa. Ad un omosessuale sembrerà assurdo ritenere sbagliato quel sentimento d'amore che prova in modo tanto evidente e spontaneo. Come per la giovane che si innamora follemente di un uomo sposato, ritenere falso il suo amore. Se accettiamo la realtà del pervertimento dei nostri istinti, non ci sarà difficile accettare l'etica di Dio, espressa nella verità, e li potremo sottoporre alla verifica. Come la ragione dell'uomo è un prodotto del divino ma non la sua razionalità, così l'istinto dell'uomo è un prodotto di Dio, ma non la sua istintività. Solo chi è stato amato può esprimere il vero amore. 4. Nella confusione che avvolge questo mondo, una cosa è indubitabile: sono pochi coloro che amano veramente. Questa elite di persone non è di origine extraterrestre, non è geneticamente diversa dalle altre. Non si trova raggruppata in un punto preciso della Terra, ma è sparsa in tutto il mondo. Parla la lingua degli altri uomini, si veste come gli altri, si sposa come tutti e, quello che più conta, ha gli stessi istinti di ogni essere umano. Eppure, queste persone sono sostanzialmente diverse, si comportano diversamente, sanno amare, non appartengono in definitiva al regno dell'istintualità. Qual è il loro segreto? Sono stati forse domati come le bestie da qualche forza oscura per andare contro i propri istinti? Una cosa è certa, essi hanno avuto un reale incontro con l'amore. Scrive l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 4 e versetto 19. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. L'uomo per natura non ha l'amore perché segue i propri istinti e neppure è amore. Solo Dio è amore. È ovvio quindi che chi desidera avere l'amore deve conoscere colui che è amore, deve ricevere da lui il suo amore. Tutto questo è possibile quando l'uomo si pone umilmente davanti al suo Creatore e lo riconosce come il suo Signore e Salvatore credendo in lui. Solo allora lo Spirito Santo di Dio, per un principio di vita e fisico come l'acqua scende sempre verso il basso così è, dello Spirito Divino, invade il suo umile essere spargendolo dell'amore del Creatore. Avendo ricevuto l'amore, il credente è reso simile a Dio, 1 Giovanni 4 e 17, è reso capace di amare, di contrapporre i propri istinti, di vivere in disarmonia con la propria istintività. Egli ama perché ha sperimentato l'amore di Dio, perché anche lui, come le bestie domate, è stato conquistato e vinto dall'amore. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, 2 Corinzi 5 e 14, sì, la libertà assoluta non esiste, è utopia. O siamo costretti dall'istinto o dall'amore. Il primo fa parte della nostra natura umana. Il secondo fa parte della natura divina. Il primo è alterato, il secondo è l'adempimento della legge. Romani 13 e 10. Varie versioni rendono l'affermazione di Giovanni, noi lo amiamo, riferendosi in modo esplicito a Dio. Molto probabilmente però la traduzione più corretta e anche corrispondente al greco è «noi amiamo», mettendo enfasi sul fatto che i credenti hanno la capacità di amare non solo Dio, ma tutto e tutti. Solo coloro che hanno realizzato la nuova nascita e ricevuto la caparra dello Spirito Santo sono una vera benedizione in un mondo dove gli uomini, come bestie prive di ragione, corrompono tutto ciò che sanno per istinto. Giuda 10. Conclusione. Queste riflessioni non hanno lo scopo di concludere che gli istinti naturali portino sempre a comportamenti sbagliati, o che per amare sia indispensabile andare sempre contro i propri istinti. Per cui, quanto meno siamo condizionati dagli istinti, tanto più ameremo. Tutt'altro. Se cerchiamo Dio è perché Egli ha posto nel nostro essere l'istinto di cercarlo. Salmo 27,8, Ecclesiaste 3 e 11. Se cerchiamo il suo regno è perché siamo stati creati per essere ricchi. Matteo 6 e 20. Dobbiamo educare le nostre inclinazioni naturali costi quel che costi, perché, come scrisse C.S. Lewis, il processo di educare, per quanto ben condotto, non può fare a meno di offendere. Con queste riflessioni si è cercato di collocare al giusto posto gli istinti e di definire ciò che noi chiamiamo amore. Tutto ciò che sentiamo o proviamo non è automaticamente amore, mentre lo è quando ubbidiamo incondizionatamente alla volontà di Dio espressa nella sua parola, soprattutto quando questa comporta un prezzo da pagare. E, ancora, Lewis ha una parola precisa in proposito. Non possiamo sapere che agiamo per amor di Dio, o almeno primariamente per amor di Dio, a meno che il contenuto della nostra azione non sia contrario alle nostre inclinazioni, o in altre parole non sia doloroso. Il problema della sofferenza. Ringraziamo Dio per i nostri istinti, glorifichiamolo mettendo le nostre inclinazioni naturali al suo servizio, sbarazziamoci di ogni opinione non conforme all'etica di Dio, lasciamoci modellare sia negli istinti sia nella nostra mente, per non essere come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Salmo 32, 9. Solo così cominceremo a comprendere cos è l'amore e quando amiamo. Si inizierà ad afferrare che l'ordine di Dio di amare ha anche una funzione redentrice da svolgere, e dato perché è il suo rimedio per un mondo sconvolto dal peccato, dalla disubbidienza dell'uomo che ha provocato sofferenza, ingiustizia, separazione, morte. Spesso l'amore inizia quando i miei istinti hanno svolto la loro funzione, quando sono arrivati al loro limite. Facciamo l'esempio del matrimonio. Per istinto cerco una compagna, mi innamoro e mi sposo. In seguito scopro che non tutto funziona come avevo sperato, che mia moglie, come me, ha delle difficoltà di relazione, che come me è stata traumatizzata quando era piccola e proietta le sue problematiche nell'ambito del nostro rapporto di coppia che strada facendo diventa sempre più pesante e inaccettabile. I miei istinti non riescono a sopportare tale tensione e conflitti, e così, sempre per istinto, cerco la fuga, la separazione, il divorzio. Ed ecco che ho un'esperienza personale, decisiva, vincolante con Dio, con il suo amore. Realizzo di essere stato amato, cioè accettato così come sono, compreso con tutte le mie problematiche psichiche, con tutti i miei complessi e conflitti interiori. L'amore mi ha dato nuova vita, nuove speranze, nuove possibilità, nuovi obiettivi. Solo allora riesamino il mio matrimonio alla luce dell'amore. Considero il mio rapporto di coppia come una sfida per amare, per fare del bene, per sopportare pazientemente come io sono stato amato e sopportato. L'esempio del matrimonio, che può essere esteso ad ogni altra situazione di relazione, quale fraterna, familiare, sociale, di amicizia, dimostra che gli studi ricercati e articolati su come e quando divorziare, come convivere con i fratelli in fede, come vivere in questo mondo, perdono la loro importanza se subentra il vero amore, quell'amore che susciterà nel prossimo ciò che ha prodotto in noi l'amore. E così di fronte ad un tradimento, non reagirò istintivamente con un rifiuto, ma risponderò con il perdono, e ancora, come scrisse l'Apostolo Paolo, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, vituperati, esortiamo. 1 Corinzi 4:12. Per istinto e con quell'amore naturale che Dio ha dato ad ogni creatura, posso sì dare buoni doni ai miei figli, Luca 11:13, contraccambiare il bene a chi me ne fa, essere gentile con chi è cortese con me, amare chi mi ama, compiere il bene e azioni nobili degne di rispetto, trovare un piacere reale ad aiutare gli altri, ma solo con l'amore che procede da Dio posso e sono, chiamato ad amare chi mi odia, a benedire chi mi maledice, a pregare per chi mi maltratta, Luca 6:27-36, e addirittura, sempre che ciò sia, tutto ciò è contro i propri istinti, ma tale atteggiamento mi rende simile al Padre Celeste, Matteo 5:45-48, mi eleva da creatura istintuale a spirituale, cioè condotta dallo Spirito. Mi trasporta dal regno animale, quello appartenente alla sfera degli istinti, a quello divino, cioè di Gesù Cristo. Colossesi 1:13. È quindi più che mai urgente per noi dove tutto è corrotto, regno minerale, vegetale, animale, Romani 8:22, non nutrirsi di sensazioni, diffidare dei nostri impulsi naturali, distinguere gli istinti dall'amore, e questo non perché si voglia demonizzarne uno a discapito dell'altro, ma perché ognuno ha un suo preciso compito. L'istinto serve per sopravvivere, vivere e convivere, cercare il Creatore, l'amore, per prendere l'iniziativa di amare Dio e il prossimo, per rendere di conseguenza la nostra esistenza terrena felice, fruttuosa, degna di una creatura fatta a immagine e somiglianza del Creatore. Solo così si può seguire Gesù Cristo, il nostro unico maestro sul terreno dell'amore. Quell'amore che si esprime in fatti concreti, che è condivisione, soffrire per chi si ama, gioire della gioia dell'altro, sentire che non la nostra vita è importante ma quella degli altri. Chi ama non vive solo per sé. Il senso dell'esistenza è nell'altro che diventerà tanto importante fino a dimenticarsi di se stessi. L'amore ci farà entrare in paradossi come il voler partecipare della sofferenza dell'altro, non per toglierla ma per simpatia, quasi a gioire della possibilità di soffrire. Con chi soffre. Così, abituato per istinto a pensare solo a me stesso, ad essere il centro di ogni attenzione, ad avere atteggiamenti utilitaristi, non pretenderò che qualcuno pensi a me, ma scoprirò la novità di quell'amore che soffre come scoperta della vita. Ellero. Marzo 2001. Contributo. I quattro amori. Jacques Book, Niro C.S. Lewis.